Perfetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Rapina nel napoletano d'Ercolano, il titolare di un negozio spara e uccide due banditi. Aveva denunciato episodi di stalking, oggi è stata uccisa una ragazza di 20 anni trovata morta nella sua auto. Siria, i raid russi hanno colpito l'ISIS solo in due casi, secondo la Turchia. Gli oppositori di Assad bombardati invece 55 volte. Anche la Procura di Verona apre un'inchiesta sul caso Volkswagen e arrivano brutti dati per l'economia tedesca, intanto giù la produzione industriale. Sempre più difficile la posizione del sindaco di Roma sulle cene a spese del comune. Un ristoratore dice era qua con la moglie, non per lavoro. Il Nobel per la chimica, tre scienziati del DNA hanno studiato i meccanismi con i quali si ripara il nostro codice genetico. Una buona giornata da Simone Spezia e benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Innanzitutto una notizia appena battuta dalle agenzie: l'Aula della Camera ha approvato il disegno di legge sulla concorrenza, un testo approvato a Montecitorio con 269 voti a favore, 168 contrari e 23 astenuti. Molto ha fatto discutere l'esclusione della norma con la quale si voleva prevedere di mettere i farmaci di fascia C in vendita anche in parafarmacie nel supermercato. Sarà uno dei nostri argomenti più avanti, ma in apertura andiamo a parlare di cronaca e andiamo ad Ercolano, dove in una rapina, come dicevamo nei titoli, un negoziante ha ucciso due banditi. Si trova là Laura Viggiano. Buongiorno Laura. Sì, buongiorno. È accaduto intorno alle 12. Due rapinatori sono stati uccisi nel corso di un tentativo di rapina, probabilmente dalla vittima degli stessi rapinatori. La dinamica non è ancora chiara. I carabinieri stanno facendo i rilievi, i corpi sono ancora a terra. I due sono stati uccisi nel piazzale antistante un capannone dove c'è un negozio di detersivi e bibite. Secondo una prima ricostruzione, la vittima del tentativo di rapina sarebbe un gioielliere che aveva fatto un prelievo in banca. Forse tramite la tecnica del filo i due malviventi lo hanno seguito fino a questo negozio, il cui titolare probabilmente è un parente del gioielliere, e quando praticamente lo hanno avvicinato per rapinarlo, il gioielliere, che pare abbia un regolare porto d'armi, avrebbe sparato. E per il momento questo è quello che possiamo dirvi. Allora, io ti ringrazio Laura per questo primo aggiornamento. Vi ripetiamo, la notizia è di poco fa. Torneremo a collegarci con te, ovviamente, se ci riusciremo e se ci saranno aggiornamenti nel corso di Effetto Giorno. Intanto noi restiamo sulla cronaca e andiamo con un'altra notizia di poco fa: il ritrovamento del corpo di una ragazza di 20 anni in provincia di Catania. In diretta da Catania abbiamo Letizia Carrara. Letizia, buongiorno. Sì, buongiorno a voi, qui a Nicolosi. Anche qui le notizie sono ancora molto frammentarie. Quello che si sa, abbiamo il nome: si chiamava Giordana Di Stefano, aveva 21 anni. Dalle prime informazioni sarebbe madre di un bambino di qualche mese. Il suo corpo è stato trovato qualche ora fa per terra sull'asfalto di una strada periferica del comune ai piedi dell'Etna, una strada che collega anche un altro paese pedale, insomma una zona di villeggiatura, un piccolo agglomerato di casette di campagna. Il corpo in una pozza di sangue con tante coltellate inferte, era accanto ad un'auto, un'auto grigia, un Audi 2, probabilmente di sua proprietà, davanti a una villetta, ma naturalmente qui la zona è interdetta a tutti, sono arrivati i carabinieri, anche la scientifica, noi raccogliamo queste poche notizie. Sì. Letizia, risulta effettivamente che la ragazza avesse sporto denuncia per stalking? Sì, risulta anche questo, una notizia che ci hanno confermato qualche anno fa, addirittura già da tempo avrebbe sporto denuncia di stalking nei confronti del convivente. Vedremo quali saranno gli aggiornamenti anche da questo lato, insomma un nuovo caso di una denuncia di stalking che poi finisce con un omicidio. Noi cambiamo decisamente argomento e andiamo all'estero e torniamo a parlare delle operazioni militari in Siria e in Iraq. Nella prima, in Siria, i russi stanno continuando a bombardare, si preparerebbero ad inviare truppe di terra mentre aprono le porte ad un accordo, quantomeno ad un dialogo con gli Stati Uniti, mentre la Turchia dice nei raid russi per 55 volte volte sono stati colpiti gli oppositori di Assad e solamente due volte sono stati colpiti gli uomini dell'ISIS. Ci arriveremo tra un attimo. Per quanto riguarda l'Iraq, invece, si continua a discutere dell'ipotesi che i nostri Tornado bombardino direttamente, invece di fungere da supporto, ad altre missioni aeree, come effettivamente sta avvenendo ora. È presumibile che anche di questo stiano parlando il ministro della difesa Pinotti e il suo omologo americano in questi minuti a Roma. Iniziamo da qua dunque con Vincenzo Miglietta. Vincenzo, buongiorno. Sì, buongiorno. Caratteristiche e compiti della coalizione anti-ISIS e situazione in Libia, con un focus sul ruolo che il nostro paese potrebbe svolgere nel paese nordafricano. Questi temi al centro del faccia a faccia tra il ministro della difesa Pinotti e il segretario alla difesa statunitense Ash Carter. I colloqui logicamente sono già in stato avanzato, non è che i due temi arrivino oggi sul tavolo dell'incontro bilaterale. Un approfondimento sarebbe stato già fatto ieri nella base militare di Sigonella durante la visita che Pinotti e Carter hanno effettuato al personale impegnato nell'area siciliana. Quello che più interessa, Simone, e lo anticipavi, è quale potrebbe essere il ruolo dell'aeronautica italiana nel contesto antistato islamico. Ci atteniamo allora alle parole di ieri dello stesso ministro Pinotti, che ha detto è sul tavolo l'ipotesi che i Tornado italiani bombardino le postazioni dell'ISIS in Iraq, ma la cosa va valutata assieme agli alleati e comunque un'eventuale decisione dovrà passare dal Parlamento. È scontato, ha aggiunto il ministro, che il governo riferirà alle Camere qualora l'ipotesi diventasse in realtà. Secondo indiscrezioni delle ultime ore, però, non ci sarebbe molto da attendere. Gli Stati Uniti premerebbero per un impegno in tempi rapidi dell'Italia, al punto che i nostri 4 Tornado attualmente impegnati in Kuwait sarebbero in procinto di essere riconfigurati per il nuovo scenario. E da Roma è tutto, linea allo studio. E grazie Vincenzo Miglietta. Il resto del fronte, come si diceva, soprattutto quello siriano. I rimbotti della NATO non fermano Putin, che anzi stamattina ha intensificato i raid in Siria. Bombardamenti provenienti da aerei russi hanno colpito la provincia siriana di Hama, mentre secondo l'Osservatorio Nazionale per i Diritti Umani ci sarebbero 15 jihadisti dell'ISIS uccisi ieri in un raid di jet russi su Palmira. Contemporaneamente ai raid aerei russi sarebbe in corso anche un pesante attacco dell'esercito lealista verso il regime di Assad contro le postazioni dei ribelli. Non ci sono conferme ufficiali da parte di Mosca e Damasco che gli attacchi da parte dell'esercito siriano e da parte dell'esercito russo siano coordinati. Se arrivasse una conferma, questo significherebbe una svolta nel conflitto e nel ruolo delle forze in campo. Intanto il Ministero della Difesa russo ha fatto sapere che potrebbe accogliere la proposta del Pentagono sul coordinamento nella lotta allo Stato Islamico. A rendere più drammatica la crisi anche una notizia riportata dalla Associated Press, secondo la quale contrabbandieri con legami in Russia e con l'ex servizio segreto russo avrebbero portato avanti nei mesi scorsi un mercato nero di materiale nucleare nell'Europa dell'Est, con l'intento di mettere in contatto i venditori con il califfato. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Dichiarazioni di pochi istanti fa del ministro del welfare Giuliano Poletti. Dice che il governo interverrà sulla riforma della contrattazione se le parti sociali non riusciranno a trovare una via, ribadendo così Poletti una posizione che era già stata espressa dal governo, ma che arriva il ribadire questa posizione all'indomani della rottura delle trattative. E il presidente di Confindustria Squinzi che dice sui contratti capitolo chiuso. Sentiamo. Senza un accordo tra industria e sindacati, toccherà al governo, dopo la legge di stabilità, presentare la propria proposta. Palazzo Chigi aveva infatti dato 3 mesi di tempo alle parti per riscrivere i giochi sui contratti, ma ieri è arrivato lo stop da parte di Giorgio Squinzi. Il capitolo è chiuso, ha detto il leader di Confindustria dopo l'incontro con le 40 associazioni di categoria. Ci siamo resi conto dell'impossibilità di portare avanti qualunque trattativa con il sindacato. Sono mesi, almeno da luglio, che ci prendono a schiaffoni e rinunciano a tutte le nostre aperture. Dure le critiche di CGL, CISL e UIL. Squinzi fa da sponda al governo, ha replicato Barbagallo. Il timore è che venga rilanciata l'idea del salario minimo nazionale, decretando la fine dei contratti nazionali di categoria. Un'ipotesi che è meglio scongiurare, dice il presidente della commissione lavoro Damiano, perché porterebbe a una corsa al ribasso l'anticamera del salario individuale. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Siamo al capitolo delle riforme. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, buongiorno Simone. Allora, dopo la resistenza passiva, le opposizioni si appellano al capo dello Stato Sergio Mattarella sul disegno di legge sulle riforme costituzionali. La maggioranza in aula tocca il minimo storico su un voto segreto, quota 143 voti con solo 13 di scarto per poi risalire. Intanto in aula è stato approvato l'articolo 14, ma Maurizio Gasparri di Forza Italia interviene, vanno avanti con poco più di 140 voti, così non si riscrive la Costituzione. Siamo al l'esproprio delle istituzioni e sotto accusa finisce anche il presidente del Senato Pietro Grasso. Forza Italia, Gal, Lega e Movimento 5 Stelle e SEL criticano Grasso per aver fatto venire meno il ruolo di arbitro super partes. E il tavolo del confronto nel PD anche non è andato bene, non si è trovato l'accordo all'interno del partito del Premier sull'elezione del Presidente della Repubblica e sulla norma transitoria. Si parla di un incontro con i dissidenti interlocutorio e teso. C'è poi una coda alla sospensione per i gesti sessisti del verdiniano Vincenzo Danna, che annuncia entrerà in sciopero della fame da lunedì per protesta sulla sua sospensione. Altro capitolo invece all'interno della maggioranza che fa discutere è quello sulle unioni civili. Maurizio Lupe dell'area popolare dice che è inaccettabile il nuovo testo del PD che mantiene il riconoscimento della genitorialità omosessuale e dell'omologazione con i matrimoni. Quindi si apre un altro fronte all'interno del governo e della maggioranza. Te, Simone. Grazie Elisabetta Fiorito, vedremo come andrà a finire anche questo capitolo. Sono giorni, come sapete, di Nobel, oggi assegnato quello per la chimica. Vogliamo fare il punto con Maurizio Melis, che ci ha raggiunto in studio. Maurizio, buongiorno. Buongiorno a tutti. Chi sono i premiati di oggi e per cosa? Allora, sono stati premiati tre scienziati: Thomas Lindahl, svedese, poi l'americano Paul Modric e poi il turco Aziz Sankar. Sono stati premiati per la scoperta, per lo studio dei meccanismi di riparazione del DNA. Sapete tutti che il DNA è la molecola che contiene il nostro codice genetico ed è una specie di libretto delle istruzioni che le cellule continuano a consultare continuamente per sapere che cosa fare, per far vivere la cellula e farla funzionare regolarmente. Si pensava che questo codice fosse molto stabile e invece si è scoperto, proprio Lindahl l'ha scoperto all'inizio degli anni 70, che invece il DNA continuava ad accumulare errori e si è capito allora che c'era bisogno di dei meccanismi di riparazione, qualcosa che continuasse a correre appunto ai ripari per evitare che il DNA insomma si disgregasse. E questi sono proprio le scoperte degli altri due scienziati, Modric e Sankar. Maurizio, ci spieghi a cosa porta tutto questo? Allora, ci sono due ricadute. Intanto questo è un meccanismo fondamentale della vita, proprio di base, e poi ci sono molte ricadute pratiche, per esempio in medicina, se consideriamo che gran parte, non so, dei tumori sono proprio dovuti o comunque hanno alla base delle mutazioni geniche, quindi capire come funzionano i meccanismi di mutazione e di riparazione è cruciale per combattere molte di queste patologie. Io ti ringrazio Maurizio Melis per averci chiarito che cosa è successo e ti ringrazio anche per averci creato un contatto con la persona con la quale parleremo più avanti. Si tratta di Federica Marini, ricercatrice di biologia molecolare, che tra l'altro ha lavorato per 3 anni nell'istituto diretto proprio da una delle 3 persone che hanno ricevuto il Nobel. Anche la Procura di Verona ha aperto un'inchiesta per truffa sul caso delle emissioni truccate della Volkswagen. Nessun taglio della forza lavoro, ma risparmi e blocco degli investimenti non indispensabili. L'entità del danno ancora non è stata quantificata. Bisognerà sommare il costo delle riparazioni alle multe e poi l'immagine scalfita. L'ufficio automobilistico federale tedesco attende già per oggi le soluzioni tecniche che la Volkswagen si è impegnata a fornire. Se verranno approvate, da gennaio partiranno i richiami per la sostituzione del software incriminato. Rivisto il numero delle vetture interessate, non più 11 milioni ma 9,5, forse anche meno. Negli Stati Uniti si tenta di salvare il salvabile con una operazione fedeltà, $2,000 di bonus ai clienti. Nonostante la quota americana sia davvero poca cosa per Volkswagen, meno di un quarto del mercato del diesel, che non supera il 2%, il che ha indotto molti a pensare che gli americani stiano usando lo scandalo per colpire la Germania nella battaglia che li vede contrapposti su molti fronti, dalle sanzioni alla Russia alla crisi greca, passando per il negoziato sul libero scambio. Solo una lettura c'è certo, ma anche in Europa, più di una cancelleria ne sta approfittando per alzare la voce. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E come già vi dicevamo nei titoli, ci sono anche dei segnali negativi per l'economia tedesca. Dopo i dati sugli ordinativi di ieri, arrivano brutte notizie anche per la produzione industriale, scesa d'agosto dell'1,2% rispetto al mese di luglio, un calo inatteso. Gli analisti si attendevano meno 0,2% rispetto ad agosto 2014. La produzione segna comunque un rialzo del 2,3%. Risente l'economia tedesca del rallentamento dell'economia cinese e di tutti i mercati emergenti. Nell'udienza del mercoledì il Papa è tornato sui temi del Sinodo della Famiglia. Sentiamo. Non c'è solo il problema della comunione per i divorziati risposati, lo aveva ricordato ieri il Papa intervenendo durante la Congregazione Generale, invitando a non ridurre l'orizzonte di lavoro. La centralità del Sinodo, ha ricordato oggi in udienza, è infatti la famiglia e il ruolo che nella società è chiamata a svolgere. La vita quotidiana di uomini e donne mostra infatti che ovunque c'è il bisogno di una robusta iniezione di spirito di famiglia che introduce legami di cooperazione, rispetto, lealtà, in un contesto di degrado, aggressività, volgarità, disprezzo. Tutto questo però non vuol dire chiusura. L'approccio di Francesco è sempre lo stesso. Ci tiene a ribadirlo. No a una fede che diventa museo, no ad una chiesa che si arrocca sulle posizioni del passato. Questo l'auspicio per il sinodo in corso. Possa l'entusiasmo dei padri sinodali, animati dallo Spirito Santo, fomentare lo slancio di una chiesa che abbandona le vecchie reti e si rimette a pescare confidando nella parola del suo Signore. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ma cosa ho detto di tanto grave? Così in un'intervista a Repubblica il sacerdote trentino Don Gino Flaim torna sulle dichiarazioni rilasciate ad una trasmissione sulla 7 in merito alla pedofilia. Che cosa aveva detto Don Gino Flaim? Ormai lo saprete, sono stato tanto a scuola, i bambini li conosco. Purtroppo ci sono bambini che cercano affetto perché non ce l'hanno in casa e magari se trovano qualche prete può anche cedere, e lo capisco questo. Gli era stato chiesto anche: giustifica i pedofili? Ho detto che li capisco, non che li giustifico. È diverso, ha risposto l'anziano sacerdote, e appunto, come avete sentito in questa intervista alla Repubblica, dice: ma che ho detto di tanto grave? A Don Flaim sono stati revocati l'incarico di collaboratore pastorale e la facoltà di predicazione. In questo momento è in corso un incontro tra il vescovo di Trento e lo stesso Don Flaim. Noi adesso andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e poi torneremo su tutti i temi principali di oggi, a partire dai bombardamenti in Siria e dall'ipotesi che l'Italia bombardi in Iraq. Traffico. Smau ti aspetta a Milano, 21-23 ottobre, Fiera Milano City, smau.it. Vi presenta Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Rapina nel napoletano ad Ercolano, il titolare forse di una gioielleria spara e uccide due banditi. Aveva denunciato episodi di stalking, oggi è stata uccisa una ragazza di 20 anni trovata morta nella sua auto. In Siria i raid russi hanno colpito l'ISIS solo in due casi, secondo la Turchia. Gli oppositori di Assad sarebbero stati invece bombardati 55 volte. L'ex campione del mondo di motociclismo Max Biaggi, notizia di poco fa, è stato rinviato a giudizio dal Tribunale di Roma per aver evaso al fisco circa 18 milioni di euro. Il processo partirà il 15 settembre del 2016. Il ministro Poletti sui contratti: se le parti non trovano l'accordo interverremo noi. Camusso attacca Confindustria e dice: dichiarazioni stranianti. Ed eccoci di nuovo con Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Noi adesso vogliamo passare e tornare ad approfondire i temi dell'estero, soprattutto i temi che riguardano Siria ed Iraq. E per questo io ringrazio che ci ha raggiunto al telefono, il generale Vincenzo Camporini, che è ex capo di Stato Maggiore della Difesa, vicepresidente dello IAI, l'Istituto Affari Internazionali. Buongiorno. Generale. Buongiorno, buongiorno a chi ci ascolta. Per parlare con lei, diciamo, dei due scenari principali nei quali si muove l'ISIS e nei quali si vorrebbe muovere battaglia all'ISIS, partendo da quello che più strettamente ci riguarda ed è nelle cronache in queste ore, ossia l'ipotesi che i Tornado che abbiamo mandato in Iraq e che in questo momento operano come supporto alle altre missioni aeree vengono utilizzati per veri e propri bombardamenti. Le sembra che sia sia un'operazione generale che ha un senso, e glielo chiedo sia dal punto di vista militare sia dal punto di vista politico-diplomatico? Allora, parliamo dal punto di vista politico innanzitutto. Allora, l'Italia ha deciso un anno fa di partecipare a questa coalizione. Purtroppo ha deciso di farlo con un atteggiamento, mi consente l'espressione, da demiurge, nel senso che ci sono ma solo a metà. Trovo abbastanza poco logica questa posizione, cioè, se vogliamo esserci dobbiamo fare quello che fanno anche gli altri, e se no stiamo a casa, nessuno piangerà per la mancanza di 4 Tornado in un'area del genere. Io credo che non sia possibile rimanere sempre a metà del guado, come purtroppo abbiamo fatto non solo in questa circostanza ma anche in altre. Dal punto di vista militare, il contributo che possono dare 4 Tornado è chiaramente un contributo abbastanza ridotto, in senso assoluto. In senso relativo no, perché finora l'impegno militare delle forze aeree della coalizione è stato un impegno che io definisco poco più che simbolico, nel senso che si fanno soltanto una decina di sortite al giorno. Ricordo che durante le campagne nei Balcani occidentali degli anni, fine degli anni 90, 99, sulla Serbia per il Kosovo, partivano centinaia di missioni al giorno dal nostro territorio. Avevamo 450 velivoli schierati nelle nostre basi, più quelli che venivano da altrove. E senta, molti si stanno chiedendo in queste ore, e questo vale tanto per l'Iraq quanto per la Siria, e alla Siria arriveremo tra un attimo, se non sia necessario, insomma, i famosi boots on the ground, cioè stivali sul terreno, arrivare con delle truppe vere e proprie, che l'idea è che non bastino, no, i raid aerei. Lei come la vede? No, nessuna guerra può essere mai combattuta, vinta, e la successiva pace può essere vinta se non c'è un controllo del territorio. Ora, i boots on the ground ci sono, perché sono quelli iracheni, sono le milizie sciite, sono i peshmerga curdi. Di tutto questo complesso di truppe sul terreno, soltanto i peshmerga hanno mostrato una reale capacità operativa, una volontà di combattimento che in qualche modo ha reso utile il loro impiego sul terreno. L'impiego delle forze aeree, oltretutto con gli armamenti di cui disponiamo oggi, sono armamenti di precisione che nel 97-98% dei casi colpiscono il bersaglio con la precisione di un metro, richiedono che ci sia una designazione dell'obiettivo fatta da qualcuno sul terreno. Si può fare anche la designazione per via aerea, ma è chiaro che a questo punto serve una tale mole di informazioni che non è sempre disponibile. Quindi la necessità di boots on the ground è nei fatti. Io non credo che dopo le esperienze di questi ultimi decenni, sia in Iraq che in Afghanistan che altrove, non credo che ci sia la volontà politica nei paesi occidentali oggi di rischiare la vita dei nostri soldati nei deserti del Medio Oriente. Questo è vero. Dall'altra parte abbiamo una Russia che ha fatto una mossa importante in Siria. Lei crede che la mossa di Putin, ossia la decisione di appoggiare il regime di Assad e sostanzialmente iniziare a bombardare piuttosto massicciamente, in questo caso postazioni dell'ISIS e non solo, anche postazioni, come abbiamo visto, dei ribelli che non fanno parte dell'ISIS, dei ribelli al regime di Assad che non fanno parte dell'ISIS, possa spingere l'Occidente, per così dire, genericamente inteso, intendendo gli Stati Uniti, un pezzo dell'Europa, ad agire più decisamente anche in Siria ed eventualmente anche in Iraq? Diciamo che la mossa di Putin ha spiazzato un po' tutti quanti, in particolare Washington, e credo che le reazioni diplomatiche di Washington mostrino più che una diversa valutazione strategica, una sorta di fastidio per questa, tra virgolette, interferenza russa. Putin ha giocato in modo molto, molto brillante in questa fase, da bravo giocatore di scacchi qual è, mentre noi abbiamo dimenticato il gioco degli scacchi, e oggi come oggi io vedo con una certa difficoltà la possibilità che si riesca a ricondurre le operazioni nell'area al perseguimento di un obiettivo politico comune. Questo obiettivo comune non c'è. in mancanza dell'obiettivo politico comune, le operazioni militari diventano assolutamente non fattibili e se si fanno sono caotiche. La ringrazio, grazie a Vincenzo Camporini, ex capo di Stato Maggiore della Difesa e vicepresidente dello IAI, l'Istituto Affari Internazionali, per la sua analisi. Adesso ci occupiamo del DDL concorrenza, il disegno di legge sulla concorrenza che è stato approvato oggi alla Camera, passa al Senato, ma la norma che fa più discutere è in realtà saltata ieri dal DDL concorrenza ed è quella che prevedeva che i farmaci di fascia C fossero venduti, potessero essere venduti anche nelle parafarmacie, in alcuni casi nei supermercati. Davide Gullotta è presidente della Federazione Nazionale delle Parafarmacie Italiane. Buongiorno Gullotta e benvenuto. Buongiorno. Dice innanzitutto in 30 secondi, mi porta tre esempi di farmaci che sono esclusi da questa vendita semplificata al pubblico? Beh, per esempio il Gentalin Beta o il farmaco classico Gentalin Beta, il gentamicina e betametasone, la tachipirina 1000. Sono tutti farmaci che non potranno essere acquistati nelle parafarmacie, perché appunto sono quei farmaci che fanno parte della fascia C, cioè quella fascia di farmaci dove c'è l'obbligo di ricetta. Farmaci per i quali appunto c'è l'obbligo di ricetta e che però non sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale, ma sono pagati dai cittadini, insomma, no? Sì, assolutamente, sono pagati dai cittadini e sono praticamente quei farmaci per cui è obbligatorio la presenza della ricetta. E quello che è assurdo è che in parafarmacia c'è sempre un farmacista che dispensa i farmaci, quindi il fatto di negare la possibilità a un farmacista laureato e iscritto all'ordine professionale dei farmacisti di poter dispensare questi farmaci, per me da farmacista è un assurdo, soprattutto alla luce di un DDL concorrenza che permette l'ingresso del capitale, cioè dei non farmacisti, nella proprietà delle farmacie. Quindi da un lato si dice a chi non è farmacista, a chi non è laureato e quindi ai grandi capitali, alle multinazionali che già aggrediranno il mercato tranquillamente, sì, tu puoi acquistare la farmacia, puoi diventare proprietario di una farmacia. Al laureato farmacista che ha investito sul territorio aprendo una parafarmacia in un contesto normativo di accesso alla professione in Italia che è assurdo, al laureato farmacista si dice no, tu non puoi dispensare neanche il farmaco di fascia C, che ricordo è il 13% del mercato del farmaco. Quindi stime dicono che un'eventuale perdita di fatturato per le farmacie si valuta in pochissimo. Noi restiamo allibiti dall'atteggiamento di questo governo, soprattutto un governo dove c'è il PD, che ricorda il partito che in un certo senso ci ha creati con la lenzuolata di Bersani. Con le famose lenzuolate di Bersani. La ringrazio. Davide Gullotta, presidente della Federazione Nazionale Parafarmacie Italiano. E rimaniamo parzialmente in ambito medico, scusate il collegamento un po' forzato. Saluto Federica Marini, che è ricercatrice di biologia molecolare del Dipartimento di Bioscienze all'Università Statale di Milano. Buongiorno Marini e benvenuta. Buongiorno. E ha lavorato per 3 anni a Londra presso l'istituto diretto da Thomas Lindahl, che è una delle persone che ha vinto il Nobel, se così si dice, insomma ha ricevuto il Nobel oggi per la chimica, per studi dedicati al DNA, i meccanismi con i quali si ripara il nostro codice genetico. Allora, ci dà qualche dettaglio in più su questo tipo di ricerca, Marini? Certo, certo. Intanto il Nobel è stato dato a Thomas Lindahl, Paul Modric e Aziz Sankar, che appunto, non lavo come lei ha detto, sì, lavorano sulla riparazione dei danni al DNA. Tanti e diversi sono i danni che possono colpire il DNA, altrettanti sono i diversi pathway che lo riparano. In particolare Thomas Lindahl ha sempre lavorato sulla riparazione per escisioni di basi, che ripara di fatti i danni ossidativi del DNA. Paul Modric ha lavorato sulla riparazione dei danni che insorgono durante la replicazione del DNA, e Aziz Sankar sulla riparazione invece per escisione di nucleotidi che ripara essenzialmente ad esempio i danni causati dalla radiazione UV. E ovviamente questi sono dei lavori fondamentali, perché è sempre più chiaro che difetti nella riparazione del DNA portano a instabilità genomica e da qui all'insorgenza dei tumori. Ah, benissimo. Infatti, e quindi la prospettiva, glielo chiedo molto brevemente, abbiamo veramente 30 secondi. La prospettiva sono nuove frontiere per la cura dei tumori, diciamo, certo, la prospettiva applicativa di tutto certo, questo. Certo, certo, delle grandissime importanza senza considerare che appunto il nostro gruppo qui all'Università di Milano, il Dipartimento di Bioscienze, ha ricevuto, questo che lavora appunto sulla riparazione dei danni al DNA, ha ricevuto 3 grant dall'AIRC quest'anno proprio per continuare queste ricerche. Questo fa capire come questi pathway di riparazione siano studiatissimi proprio perché sono alla base dell'insorgenza, dell'instabilità genomica e dell'insorgenza dei tumori. La ringrazio, grazie a Federica Marini, ricercatrice di biologia molecolare al Dipartimento di Bioscienze all'Università Statale di Milano. Noi ci fermiamo, sentiamo tra un attimo che cosa succede sui mercati. Poi andremo alle vicende di Roma e del sindaco di Roma, Ignazio Marino, a questo problema con le ricevute delle cene che sono state fatte a spese del comune, che in realtà non corrisponderebbero a quanto dichiarato dallo stesso Marino in termini di ospiti che sono stati in queste cene, e poi ritorneremo a Napoli per questa rapina nella quale sono stati uccisi i 2 banditi. A tra poco. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Ed eccoci di nuovo con Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Brevemente le notizie principali: la rapina del napoletano ad Ercolano, il titolare di un negozio ha sparato e ucciso 2 banditi. Una ragazza di 20 anni è stata trovata morta nella sua auto, aveva denunciato episodi di stalking, siamo nel catanese. Le riforme: in 14 della minoranza del PD hanno votato in dissenso dal gruppo su un articolo che riguarda la delibera dello stato di guerra. In Siria i raid russi hanno colpito l'ISIS solo in 2 casi, secondo la Turchia. Mosca replica: abbiamo colpito 112 obiettivi del califfato. Alla borsa. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Ed eccoci di nuovo, innanzitutto con un breve aggiornamento sulla rapina nel napoletano. Laura Viggiano, buongiorno. Sì, salve, buongiorno. Insomma, l'ultimo aggiornamento che abbiamo è che la presunta vittima del tentativo di rapina, un commerciante all'ingrosso di preziosi, è stato portato alla tenenza dei carabinieri. Secondo una prima ricostruzione, avrebbe reagito appunto a questo tentativo di rapina sparando con una pistola che deteneva con un regolare porto d'armi, peraltro di recente rinnovato. 2 i rapinatori rimasti uccisi a Ercolano, pare lo abbiano seguito questo commerciante all'ingrosso di preziosi dopo un prelievo in banca, mentre si recava in un negozio dove vengono venduti detersivi e bibite. Per il momento è tutto del Colano. Grazie Laura Viggiano anche per questo aggiornamento e per questi ulteriori dettagli. Passiamo a parlare delle vicende di Roma e soprattutto delle vicende del sindaco Ignazio Marino. Al centro dell'attenzione in queste ore ci sono le cene pagate sostanzialmente con i soldi del comune, e che il sindaco ha affermato in più di un'occasione essere state cene di rappresentanza, mentre invece sta emergendo quella che sostanzialmente è un'altra realtà. Facciamo il punto con Giovanna Vitale, una collega, una giornalista di Repubblica Roma. Giovanna, buongiorno. Buongiorno a voi. E che cosa sta emergendo? Certamente stanno emergendo moltissimi dubbi e altrettanti sospetti sul fatto che alcune delle ricevute, dei giustificativi forniti dal sindaco Marino per spiegare, insomma, per giustificare le sue cene con rappresentanti del mondo della cultura, del sociale, dello sport, ma anche della comunità di Sant'Egidio, non corrispondano al vero. Tant'è vero Giovanna, che oggi voi il vostro giornale ha rintracciato un ristoratore esatto, compreso, no, tra i ristoranti nei quali sarebbe andato Marino, nel quale ha detto il sindaco: sono andato con un rappresentante dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il ristoratore dice: no, è venuto qua una sola volta e quindi me lo ricordo, era con la moglie. Non solo, ma il collega non solo ha fatto vedere la ricevuta al ristoratore, il ristoratore ovviamente l'ha riconosciuta come propria, ma ha fatto anche vedere la foto della moglie del sindaco e il ristoratore l'ha assolutamente riconosciuta, quindi e si ricordava benissimo peraltro quella circostanza, perché ha detto: il sindaco Marino da noi è venuta una volta sola in quell'occasione ed era appunto con la moglie, ricordando addirittura il particolare che la moglie, il ristorante è a meno di 100 metri dalla scalinata del Campidoglio, era passata nel pomeriggio a prenotare, peraltro in quel giorno del 27 luglio del 2013, questa è la data in cui è avvenuta la cena, è un sabato e la moglie sarebbe passata anche a prenotare un tavolo dicendo, dando proprio il nome Marino per due. Insomma, ce n'è abbastanza. Ovviamente io noi facciamo delle inchieste giornalistiche, certo, non siamo la procura, ok? È evidente. Quindi è evidente che qualcuno comincia a dire la parola di Marino contro la parola del ristoratore. Sì. È una questione legittima, peraltro. Sì, sarà la procura a verificare. A questo si aggiunge la vicenda appunto della comunità di Sant'Egidio. Il sindaco aveva detto, sono andato a cena con loro, a pranzo, adesso non mi ricordo, loro hanno detto tutto questo non è mai avvenuto. Ti voglio chiedere in breve, in un minuto, Giovanna, una valutazione. Secondo te è possibile che alla fine la legislatura di Roma finisca esattamente per questo caso? Non sono in grado di dirlo, ma certamente da quello che mi pare di sentire anche stamattina in ambienti renziani, la parola dimissione non è più un tabù. Era un tabù fino a qualche giorno fa, quando si cercava di mettere in sicurezza il Giubileo. Ricordiamo che il Giubileo inizia l'8 dicembre e terminerà un anno più tardi. Adesso, da quello che sembra, non è più una cosa così scontata che Roma abbia un sindaco fino alla fine del Giubileo. Però ancora davvero la situazione è molto fluida e in evoluzione. Ti ringrazio, grazie a Giovanna Vitale, collega della Repubblica a Roma, collega giornalista della Repubblica a Roma. Una notizia prima di andare a sentire che cosa succede sulle strade e che arriva dalla Associated Press, dove un responsabile siriano ha confermato l'avvio di un'offensiva di terra delle truppe governative di Assad in Siria e nelle regioni centrali del paese. Vedremo che cosa succederà da questo lato, così come vedremo quello che succederà a Roma. Traffico, Platero, e poi ci ritroviamo subito dopo.